sempre accendo il putagen. Sai, rende il clima più accogliente. Stendo i calzini, faccio il minestrone, il tè, castagne, china calda e vin brûlé. Un, due, tre. Benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Putagè, il programma che non stufa, sempre qua in diretta dall'imbarchino del Valentino, ovviamente sulle non frequenze di RBL Radio Banda Larga. Oggi un imbarchino del tutto inedito, un imbarchino innevato e come non abbiamo mai visto, giusto proprio il tempo da Putagè in effetti. E, siamo pronti a iniziare, no, sempre noi, io che sono Riccio. E poi qua di nuovo manca Gianni, per la seconda puntata di seguito manca Gianni che dice io che sono Gianni, ma sta arrivando, quindi a momenti sarà qua, è stato bloccato dalla neve, ma in compenso in mia compagnia c'è Guglielmo in regia e poi in più abbiamo già ospiti qua all'imbarchino, hanno sfidato la tempesta, quindi salutiamo Sol che poi interverrà anche, e anche Lucio, incredibile, si è palesato qua all'imbarchino. Dai suoi giri per il mondo. E una puntata di Putagè che sarà come al solito bella ricca. E abbiamo deciso di dedicare ormai come la tradizione l'ultima puntata dell'anno, perché la prossima settimana ci sarà Radio Carbone, quindi per noi è l'ultima, e alle classifiche di fine anno. Ma come sapete noi facciamo delle classifiche che trovate solo a Putagè, non ci sono nelle altre radio o in televisione, ad esempio la classifica delle migliori notizie dell'anno, la classifica ai nuovi artisti trap per sorprendere i cuginetti a Natale, e poi ci sarà, dedicheremo un po' di attenzione alla musica cristiana che è ingiustamente sottovalutata, e quindi ci sarà con noi anche il ragazzo cristiano che Walter è riuscito a darci il contatto, e poi anche il nostro Marco Maioli che ci parlerà di calcio in questo periodo in cui si parla tanto di calcio. Ma vi ricordiamo che ci sono i nostri contatti per chi vuole comunicare con noi, innanzitutto Telegram, se cercate il gruppo rbl.media ci trovate, lo leggiamo, ce l'ho proprio qua davanti, quindi lo leggiamo in diretta, e poi c'è anche Instagram con Radio Putagè e Facebook che appunto condividiamo con Radio Carbone, quindi Putagè/Radio Carbone. E, in attesa appunto dell'arrivo di Gianni e di partire con le prime rubriche, direi che possiamo iniziare con un po' di musica, quindi inizierei con questa per caricarci un po', So Far Gone, Weird Nightmare. Puta Jazz. Puta Jazz, il programma che non stufa, sempre qua sulle non frequenze di RBL Radio Banda Larga, con ai microfoni sempre noi, io che sono Riccio. E io che sono Gianni, finalmente lo posso dire... Dire anch'io, sono arrivato, non so cosa vi ha detto Riccio nell'intro, ma alla fine ci sono e possiamo così cominciare a bomba anche questa puntata. Esatto, esatto. Possiamo iniziare con la prima delle classifiche di quest'anno. Esatto, una di quelle più amate che ci piace di più, ovvero la classifica delle notizine. Esatto, la classifica delle notizine, che sono le notizie più stravaganti, diciamo, che abbiamo trovato uscite quest'anno. Ad esempio, vai, cominciamo subito a bomba. Così, cosa hai trovato? Dal sito di Radio 105. Diciamo. Vabbè, quindi anche. Vigilante annoiato disegna gli occhi a un'opera da $1 milione. La guardia ha vandalizzato le tre figure di Anna Leporskaya. Quindi. Giustamente ha visto quest'opera incompleta, ha detto: ma già che sono qua a far nulla. Esatto, quindi un po' strano. E poi passiamo invece al Corriere con questa notizia. Il Papa: le suocere non sono il diavolo, ma chiacchierano meno. Ah, quindi un monito alle suocere da parte, esatto, del Papa. Non so perché il Papa ha sentito il bisogno di esprimersi su questo argomento. Non penso neanche abbia una suocera. Strano, però in effetti è una bella notizina. Esatto, poi facciamo un piccolo intermezzo in questa classifica parlando di animali. Questa è la Zampa, il sito della stampa, cioè la parte questa della stampa, sì, che si occupa di animali. La parte e anche un po' mi riguarda la storia del riccio con la sindrome del palloncino. Non riesce a espellere il gas e si gonfia a dismisura. Esatto. Quindi sì, tu porti il nome di questo animale, non so se anche i suoi problemi. Quindi. Un po' sì. Entriamo nei dettagli. E sempre invece per la questione animali, non so perché, ma il Corriere ha sentito il bisogno di chiedere a Fabrizio Rondolino, che era uno dello staff di Massimo D'Alema, insomma del giro prima PC, poi di SPD, questo articolo dedicato al suo gatto, che si chiama Sergio, gatto teppista, sparisce per giorni, caccia, lotta, ma quando torna cerca carezze. Sottotitolo: andatura da bullo, miagolio particolare, ritratto di un gatto ad alta dose di gattità. Continuiamo con ADN Kronos, la Cassazione, il reato. Allora, reato di rapina aggravato se con la mascherina. E il ladro si giustifica, ma era obbligatoria. Infatti dovrebbe esserci un attenuante, perché esatto, comunque ha rispettato le regole. Vabbè. Questa è dedicata a Sol, che è qua fuori, perché è una gaffe di una deputata dei repubblicani negli Stati Uniti, che ha detto: negli USA ormai c'è la polizia del gaspaccio. Voleva dire della Gestapo, invece si è sbagliata e ha confuso la Gestapo con appunto questa zuppa che può capitare in spagnola, molto simili. Poi piccolo intermezzo per quanto riguarda i problemi burocratici. L'INPS a caccia dei pensionati morti all'estero. Con una videochiamata dovranno dimostrare di essere vivi, altrimenti addio a segno. Attenzione, l'INPS si è svegliato cosa. Cioè, insomma, se sono morti, sì, addio a segno. Giustamente, però devono dimostrarlo. Sempre su questo tema, dal sito Today, entrano in un ufficio postale con un cadavere e chiedono la pensione del morto. Ah, ma questo c'era anche un film. In Irlanda, non so se... Ma quindi l'hanno portato, cioè facendo finta che fosse ancora vivo? Sì, evidentemente sì. Pensavano che non stesse tanto bene, invece era morto. TGcom 24, Svizzera cambia sesso per riscuotere la pensione con un anno di anticipo. Che gesto. Visto che insomma le donne vanno in pensione prima, quindi perché no? Torniamo alla classifica normale. Repubblica: australiano si presenta con le valigie a Palazzo Reale a Milano. Sono l'erede dei Savoia, questa è casa mia. Questo è un bel colpo di scena. Infatti no, si è sistemato poi. Da provare. Sempre adesso un piccolo intermezzo che si chiama Ne usciremo migliori, visto che si diceva i primi tempi del Covid. Sì, questo è invece rapporti di vicinato, appunto, che non sembrano tanto non migliorati. Sono migliorati, no? A Catania costruisce scala abusiva per non incontrare i condomini, quindi questo tipo si è fatto una scala che va direttamente tra l'altro sul anche suo molto balcone. Bella, tutta chiocciola, sì. Sì, c'è la foto. E questo è ancora peggio, Genova muore in casa, i vicini sigillano la porta per non sentire l'odore e non chiamano i soccorsi. Ah vabbè, hanno fatto prima così, si vede. Sempre parlando di vicini e di, insomma, di appartamenti, annullato questo da Tele Friuli, prestigioso. Ah, come hai fatto a scovare anche queste notizie? Annullato il concorso sul balcone di Natale, in testa c'erano le luci di una casa senza balcone. Ah. Cioè, era un premio per chi addobbava meglio il balcone e hanno iniziato a votare delle foto a caso e si vincevano dei soldi pubblici, tra l'altro. Poi questo invece è speciale guerra in Ucraina, che è appunto una delle notizie serie di quest'anno, ma ha dato vita anche a notizie particolari. E questa è un'idea geniale di Trump, devo dire, veramente notevole. È un grande statista, bisogna dire. Che ha dichiarato: dovremmo mettere la bandiera della Cina sui nostri F-22 e poi bombardare. Così poi genio. La Russia se la sarebbe presa con la Cina. Danno la colpa alla Cina. Questo invece è Paris Match, un quotidiano francese, che dice: quando Putin è all'estero qualcuno raccoglie i suoi escrementi per non lasciare tracce. Quindi io mi chiedo il lavoro di questa persona. Spero almeno sia ben pagato, perché sì. E ancora ultimo su questo argomento, in Romania, in una partita di calcio, vogliono lanciare un messaggio contro la guerra, ma hanno composto la scritta in modo sbagliato e Stop War diventa Pentole Crude. Quindi hanno lanciato lo slogan Pentole Crude. Poi arriviamo a quelle un po', diciamo, la testa della classifica, almeno quelle che a me facevano più ridere. Una è proprio qua da Torino, dalla fanpage: resta incastrato fino all'ascella nel water della discoteca, stava cercando di recuperare un dente. Ai, brutta cioè, serata, una scena da Trainspotting. Aveva perso un dente ed è anche rimasto incastrato nel water. Vabbè, da raccontare. Questa è in Thailandia, chiude il tempio buddista, tutti i monaci erano positivi alla metanfetamina. Che è comunque un aiuto per la meditazione. Certo. Cioè. Questo da Perugia Today, parte con una citazione che appunto è quello per cui poi questo è stato incriminato. Ecco il maresciallo che arresta tutti tranne la caduta dei capelli. Al processo per oltraggio. Ma oltraggio a chi? Spero, non ho capito. Al pubblico ufficiale, che gli hanno detto che arresta tutti tranne la caduta dei capelli. Vabbè. E poi quella secondo me più bella, dal Messaggero, che riguarda la nota azienda Haribo, quella delle caramelle. Quest'uomo trova assegno di 4 milioni di euro smarrito da Haribo, lo restituisce, riceve 6 pacchetti di caramella per ricompensa. Lui ha dichiarato un po' poco. Ha commentato un po' poco, però vabbè, dai, 6 sì, pacchetti. Sì, però non è che se la sia presa più di tanto. No, bene, queste è andata benissimo. Erano le notizine di quest'anno. No, siamo partiti davvero forte con queste classifiche. Passiamo tra poco alla trap, quindi entriamo un po' in clima rap con Weld Wonder, una rapper americana. Dai, anche nota come Bell 9. Strike will be swift. My mind on the buck, mind in the luck. Never trust a virgin cause he's lying in his nut. Yeah, time in the truck, time in the tuck. Bitches here for minjuries, I'm lying in the cut. Turn dimes into dust, slimes in the crust. Enhancer are the flavor like lines when they bust. Got crimes for the bunch, rhymes for the punch. Only beef or beef, that's prime for my lunch. And fuck 12, bitch, shit, I ain't like the good cop. Neither the Tony Danza or the Rhea. Tell your man to take a breather. Only fans don't wanna feed us. Everyone gon' wanna be there. If them bitches wanna meet up, I'ma send them off to Jesus. Now my lyrics up on genius. Basket in my brilliance and read up on my thesis. How much of my currency can take for me to mean this? I'm rising from the sea in a clam like I'm Venus. Fleeces, I'm jumping off like the X Games. To Lauryn Hill like my ex claims. Just until the checks came. Now I'm trapping kings like chess games. Go run that shit on the next name. They say I pulled your car too fast, you're breaking mood glass. Bitch, where the food at? If I ain't come to take the mic, then where you'll do that? Do that, do that. Nah, I ain't into making new friends, but I'll keep it cordial. I mean, think gorgeous. Full fur from Georgia, Georgia. Sign the ink for the purchase and purchase. Fire work it, work it, bitch. Got my ass out and I ain't even twerking. Murking words on papers, got the makers flying, takers lying, fakers crying. I'm rooting for the Lakers, bitch. I'll make a buying. And I ain't even got no enemies. And she a friend in me and not no more. I wish her well. We fight a better thing. Unsettling to think I put my energy into anything other than clever and metal things. Let it seem forever when you weathering the pressure. Ultimately violent when I push to certain measures. Engage, undermine, and overthrow suppressors. Yeah, I'm a bad bitch. And better than your average. I'm calling out legitimates cause all these fools is catfish. And I ain't got no time to play no fucking games. Decapitating the head bitches. Seeking red visions ahead, bitches. I must be a medium. I'm talking to some bad bitches. Taking men's riches. Spread them all throughout the West, bitches. Call me Robin Hood. I'm outrageous. Written out pages. Giving out stages. I'm only doing with Robin Wood. I think I found greatness. They can out phases. Keeping out wages. Breaking out gauges. Now we doing the Robin Hood. Putagè è il programma che non stufa, ci eravamo persi un attimo alla fine della canzone. Finita un po' così di botto. Sì, stavamo un po' chiacchierando, ma siamo pronti, quindi abbiamo detto entriamo un po' in tema. Beh, questa era più rap che trap, ma comunque è ormai da anni Putagè fa questo servizio pubblico, cioè praticamente per, visto che ormai da anni la musica di moda è la trap, e quando a Natale ci si trova con i parenti bisogna cercare di stupire i cuginetti, cioè loro pensano di essere... Ma giustamente sì, un po' lo sono, no? Di avere questa musica che è un po' di nicchia, che sanno solo loro, eccetera, e che pensano che noi più grandi non ascoltiamo. Esatto, ma noi non solo dobbiamo dimostrare di conoscerla, ma rilanciamo, gli proponiamo noi delle cose che magari non conoscono. Esatto, questo è proprio per stupire i cuginetti a Natale e i nipotini. E quindi faccio la stessa premessa dell'anno scorso. Io non sto più ascoltando trap, non sto più ascoltando... Ascolti solo canzoni per bambini. Canzoni per bambini o pop. Podcast, quindi per consigli su queste due cose scrivetemi in privato. E quindi La classifica delle canzoni per bambini era un po' troppo. Era un po' troppo, non siamo pronti, preferiamo questo servizio. E quindi anche quest'anno cosa abbiamo fatto? Abbiamo chiesto aiuto alla nostra collaboratrice preferita, ovvero Sol, che lavorando nei licei ha potuto chiedere anche consigli agli stessi ragazzi. Da oggi si è autodefinita Radio Spalla Sol, perché viene quando c'è bisogno di una spalla. Rilanciamo le sue battute migliori. Esatto. Ciao Sol. Hola. Hola. Grande Radio Spalla Sol. Grazie, mi piace il nome. No, non è male, non è affatto male, lo risfrutteremo. E quindi dobbiamo ringraziare in questo caso poi i ragazzi della quarta CL del Giordano Bruno. Ok, se ci state ascoltando vi ringraziamo. E siamo pronti per questa classifica. Diciamo il tratto in comune, un po' anche la direzione in cui sta andando la trap, è un po' questa internazionalizzazione. Comunque i protagonisti nuovi della trap sono tutti ragazzi di seconda generazione, quindi nei testi si trovano tante parole in francese, in spagnolo, in arabo, e quindi anche un po' i protagonisti che vi andiamo a elencare oggi fanno parte di questa schiera. Tra quelli appunto che ci hanno consigliato i ragazzi della quarta C, chi c'è? Chi c'è Sol? Beh, c'è una lunghissima lista e anche loro hanno segnato quelli che sono un po', come avete detto voi, di nicchia. Esatto, sì, esatto. Poi tra l'altro loro ti hanno segnalato soprattutto gente di zona. Sì, hanno quindi voluto anche tirar fuori quelli proprio torinesi. Bene, bene. Beh, direi che i primi due nomi, quelli più importanti, no? Sono Cassimi e Junes La Grinta o Grinta A, non siamo sicuri. Sì, questi sono gli unici che conoscevo, penso, dell'elenco che è vero. Hanno fatto. Ormai beh, perché sei un liceale, esatto, anche tu. Sono qua di zona. E quindi, sì, questi qua sono proprio di Barriera. Sì, sono due ragazzi di Barriera. Intanto sentiamo in sottofondo un pezzo. Sì, quindi questo è Cassimi, no? E questo è Cassimi. Copacabana, esatto. No? Questa qua è Niente da perdere, mi pare. Niente da perdere, hai ancora molto da ascoltare, esatto. Ho ancora tempo fino a Natale. Esatto, devi prepararti. E, però sì, sono di zona, sono qua di Barriera. Sono qua di Barriera e soprattutto quest'anno c'è stato questo questa canzone, questo grande featuring. Con questi due ragazzi, ma soprattutto con Rove, non so se vi ricordate questo super tormentone estivo del Shakerando. Questo Rove ha messo insieme a tanti ragazzi di Torino e Milano e Padova. Mm-hmm. E ha fatto questa canzone. Sì, in realtà è bello che ha coinvolto dei giovanissimi al posto che fare il featuring con gente più. Esatto, li ha un po' lanciati e spoiler, l'andremo a ascoltare dopo appunto questo pezzo. Voglio dire che ho trovato un sito che chiama questa canzone proprio un inno alle loro passioni e alle loro regole e ai valori della strada. Grande. Questo dal sito Videoclip Italia. È quello che pensiamo, è quello che pensiamo. Però hanno segnalato anche altre gente particolare. Sì. Che poi non abbiamo inserito nella classifica. Vabbè, c'era Diablo Baby, che è interessante perché vabbè, ha 17 processi a carico, tra cui un furto di uno pneumatico. Ha più processi che canzoni. Ha più processi che canzoni, probabilmente. Ha rubato uno pneumatico, tra le altre cose, e anche processo per diffamazione contro Morgan. Quindi Morgan l'ha denunciato. Va fortissimo su TikTok, Diffamare Morgan. No, anche probabilmente. Poi di solito è Morgan che diffama. Di solito sì, strano, molto strano. E poi c'era questo Disgacia che ci ha colpito. Disgacia è bellissimo. E questo ragazzo che, se probabilmente lo vedi per strada, non immagini che è un trapper. Purtroppo dovete cercare il loro video perché cioè quello me l'avete fatto vedere, è proprio l'anti-trapper, no? Sì, un ragazzo con gli occhialetti che sembra un po' sfigatino, sì, dai, diciamolo, un po' anche, sfigatino di classe, però. Pare che abbia successo, ha un bel flow comunque, sì, quello ce l'ha, però io lo direi che è più rap che trap comunque. Okay. Sì, è vero. Poi un altro sito, Raplogia. Le cheat del sito. Perché a quanto pare lui usa tantissime parole in spagnolo, quindi dicono che ha un urban dictionary molto influenzato dal mondo latinoamericano, quindi già dicono che potrebbe esplodere questo prossimo anno. Segnatelo per presentare i cuginetti. E poi niente, proseguiamo con altri nomi che appunto abbiamo individuato che potrebbero spaccare nel prossimo futuro. Adesso andiamo un pochino più veloce, ci sarebbe ad esempio questo Keta che viene dal quartiere San Siro, e andiamo ad ascoltarci un pezzo della sua NFT. Scherzo e mo. Al-Qaeda sono in Siria, NBC sto su Al-Jazeera. In effetti sui 10.000, scam da Manila. Tutto scam, crack e rapino, tuo conto adesso è metaverso, mi faccio esplodere, terrorismo digitale. In effetti vendevo niente, questo segnaliamo se volete appunto stupire i cuginetti. Forse il nome che più mi ha colpito, nel senso che forse mi è piaciuto di più tra tutti questi, sono gli Slinks. Questo è un duo di Brescia, amico di Balotelli, vabbè, che hanno giocato un po' anche alla Play insieme, hanno detto, e un duo formato da Prince the Goat e Ibra the Boy, e che suona più o meno così, quella. Torniamo nel blog, sopra un panamera, per i cash fino a sera, fendi bag sulla schiena, non ci parlo con i cops, nuovo cell, nuova scheda, VVS la catena, oro giallo come crema. Scheda, sono un vero boss, sto a fare il mestiere. Sto pensando a farli per tornare a casa con le tasche piene. E loro comunque esatto, sono un po' diversi a partire dalle basi, perché se sentite c'è anche un pianoforte qua, quindi siamo attenzione di livello. E poi anziché usare l'autotune hanno un tono molto sommesso, sembra quasi che stiano recitando un testo trap con tutte le... Guglielmo vuole sapere di più, dovete ripetere il nome. Slinks, vatti subito a segnare, Slinks, a cercare. E poi forse quello che sta avendo un pochino più di successo, anche solo guardando i numeri su Spotify e su Instagram, è Medi. Medicartier. Esatto. Davai, davai, come un russo, davai. La mia vita l'ho divisa a crai. Tomas, Tomas, loco, poche scelte. O sei uomo oppure si perde. Davai, davai, come un russo, davai. La mia vita l'ho divisa a crai. Tomas, Tomas, loco, poche scelte. O sei uomo oppure si perde. Piccolo arrabbiato, cazzate da piccolino. E lui è un ragazzo di Bologna, del quartiere San Donato. E anche lui ha parlato un po' dei processi che ha avuto a carico. C'è un video su YouTube in cui racconta la sua storia. E è stato arrestato per evasione, perché era già in stato di fermo, per possesso di droga, eccetera. E, bisogna chiamare la gazpacho, esatto, esatto, in questi casi, esatto. Esatto, la polizia, comunque la street attitude direi che ce l'ha. E, bene, questi erano un po' i nomi caldi che vi volevamo segnalare. Quindi dai, ricapitoliamoli un attimo. Che esatto, noi che... consigliamo assolutamente Cassimi e Younes La Grintà, quindi sì, rapper nostrani. Purtroppo un po' pieni anche loro di riferimenti un po' sessisti. Purtroppo sì. I testi della trap non sono cambiati, quindi se cercate altre tematiche non le troverete. E poi ci sono Keta, gli Slings e Medi Cartier, ok? E ora possiamo fare anche delle menzioni speciali. Esatto. Menzioni speciali, io mi ero segnato anche, forse consigliato sempre dalla quarta C, Fudoc, che è un po' il nuovo Gali, sì, a detta di nessuno, e Poli OK, sì, solo mia, Poli OK, che è il nuovo Card Brave invece, sempre a detta di nessuno. E menzione però che dobbiamo assolutamente fare, non solo perché di Chieri, ma anche perché è stato allievo della nostra Sol. Infatti sì, c'è stato uno scoop incredibile. Mentre cercavamo questi nomi è venuto Sol, ha aperto un video ed era un suo ex studente. Esatto, pazzesco, si tratta di Bianco Marmo. Bianco Marmo. Ma com'è successo, Sol, già in classe tu te la saresti aspettata? Vabbè, era un ragazzo che secondo me già qualcosa aveva già tirato fuori, le piaceva la musica. Una volta aveva fatto un compito bellissimo su Bob Marley. Sarà contento che parliamo di lui, così sì, la sua insaputa. Comunque, ma tra l'altro non ti senti molto vecchia essere stata la professoressa di un rapper. Questo, però forse questa è la vera soddisfazione dell'insegnante, no? Vedere che il tuo allievo diventa trapper. Sì, non tanto che vadano all'università, ma all'università della strada. Esatto. È stato molto bello, ha fatto questo... Dai, ascoltiamone un estratto, ascoltiamolo. Sì, primo maggio. Della cantera Macete, tra l'altro, sì. Quindi... Passo da solo restando nel mio, perché con gli altri mi sento a disagio. E tu non capisci che cazzo mi prende, non è mai festa come il primo maggio. Non ho bisogno di casa in alcol, non ho bisogno di zavorre attorno. Mi sento sei bene restando da solo e fanculo le ali per spiccare il volo. Ma via degli spazi, ehi, non ho bisogno di questi miei vizi. Non ho bisogno di nessun altro, se resto da solo io volerò in alto. E beh dai, adesso possiamo rilanciare Bianco Marmo, prossimo ospite a Putagè, con intervista della sua ex professoressa. Poi grande scoop. Esatto. Vogliamo dire anche dalle tue parti, lui l'ho visto poi in un'intervista molto imbarazzante, però, che diceva che del quartiere della Maddalena di Chieri. Sì. Dove... sì, cioè, in questa intervista in cui lui è, non si sa perché, in mutande in mezzo ai palazzi. Sì. Beh, Maddalena è un po' la periferia di Chieri, quindi ci sta che esca da lì. La tua vita adolescente così, Gianni. Ah, così in mutande in mezzo ai campi. Sì, può essere capitato. Non lo escludo. E andiamo ora ad ascoltarci, come abbiamo anticipato, Rove e tutti la sua crew, la famiglia. Sotto i palazzi neri come le Audi, alle e manga, non so la famiglia, e alle e manga, non so la famiglia, la famiglia Torino, la famiglia Milano, la famiglia di Padova, la famiglia. Mafia del Brento, Sinaloa, gioco d'azzardo e roba buona. Dentro al business come il padrino, un po' Tarantino. Le Iene, faccio pop pop pop per il bottino. Romanzo cream libanese, come la Magliana, perché lo Stato non ci sfama come Che Guevara. Vittoria o morte per la grana, uè. Cresciuto così malamente, uè. È la strada che parla, quella cosa va tutto bene. Sì, tutto a posto, ho guadagnato il mese. Oggi li conto, scusa carabiniere, ma mi hanno assolto, se vuoi t'offro da bere. Sto giù nel blocco, oh. Nato in Marocco, moto ninja sì nel blocco. Siamo tre sono 18, la polis 30 nel blocco, 30 nel blocco, la stessa ci fa le foto, guarda. altre pompe, we, we, we, we. Fumo la notte solo qualità. Passa montagna, je suis revê. Écoutez, écoutez, papam, pam, pam. Écoutez, écoutez, papam, pam, pam. Ro è la zona, no, no. Torino, barriera, legna, no, no. Occhiali, carriera, tamaroro. In pena, na, petta, un tamararo. Lei non ci voleva, fanculo, adesso mano un disco di platino. Orgogliosa la mi fa, ha. In zona, se ora c'è la felicità. La famiglia. Italy in France, come Verratti. Famiglia, la famiglia Torino, la famiglia Milano, la famiglia di Padova, la famiglia, la famiglia Sana, la famiglia Milano, la famiglia Torino, la famiglia. Vende le placate che sciute in questo barrio, vede i grandi fatti. E rientriamo sulle non frequenze di Radio Banda Larga. Questo appunto era la famiglia, anche questa vi consigliamo di recuperarla. E possiamo continuare con, finalmente dopo un bel po' di tempo possiamo dirlo, con una nuova rubrica. Cioè, esatto, quant'è sì. Che non facciamo una nuova rubrica? Beh, quest'anno c'è stato anche Bulbasaur di sì, della nostra amica Elena. Bulbasaur non abbiamo ancora svelato il non nuovo abbiamo nome, ancora svelato il nome, però c'è stata già una puntata. Sì. Però no, abbiamo lanciato in realtà penso questa rubrica 2 anni fa, poi non l'abbiamo mai fatta. Sì, era tra le anticipazioni, però non abbiamo detto quando l'avremmo fatta. Esatto, solo prossimamente. La rubrica si chiama Putagè c'era, che in pratica quando ci troviamo in un luogo dove succede qualcosa di importante facciamo un piccolo reportage. Esatto, una breve intervista se riusciamo sul posto. Esatto, in questo caso l'abbiamo legata anche, ovviamente questa è la puntata delle classifiche, quindi ha a che fare con le classifiche, perché visto che spesso in questo periodo dell'anno tutti i programmi fanno le classifiche, i migliori pezzi rock, i migliori pezzi rap, ma guarda caso non c'è mai... In pochi, forse su Radio Maria, non so. Non c'è mai la musica cristiana, esatto, che invece esatto. È comunque un pezzo importante della musica italiana, no? Esatto, quindi noi abbiamo pensato di fare questa classifica che per brevità ha solo una posizione, ovvero la prima. Esatto, che la prima si tratta, beh, anche perché in questo momento è l'artista che spacca di più. Sì, quindi non c'è stato, sono stati pochi dubbi. Esatto, Ragazzo Cristiano, che è questo giovane che appunto fa musica rock cristiana, e noi siamo andati a beccarlo proprio durante il suo tour, il Christmas Tour. In particolare siamo andati a intervistarlo a Feletto Canavese, al Don Bosco Palace. Sì, esatto, una delle principali date del suo tour. Esatto. E ci ha raccontato anche un po' di questa svolta rock, del fatto che sta cambiando nome in RC7. Quindi lo andiamo a sentire, questa è la prima puntata di Putagè c'era. Putagè c'era, siamo live qua al Don Bosco Palace di Feletto Canavese. Per intervistare una star. Esatto, finalmente riusciamo a fare anche questa rubrica, queste interviste live, e siamo qua con davvero una star, perché è qua con noi il Ragazzo Cristiano. Dai, non esagerate ragazzi, mettetevi in imbarazzo, no? Sì, ciao a tutti comunque. Ciao ragazzo, ti possiamo chiamare sì, ragazzi. Sì, certo. Però anche se ultimamente hai anche un nuovo nome d'arte. Ah sì, RC7. RC7, Ragazzo Cristiano. siamo sette, sì. Come mai questo cambio? E sono i sette apostoli, i ragazzi che suonano con me, perché in realtà la band è Ragazzo Cristiano e i sette apostoli. Esatto, perché okay. Diciamolo che siamo qua perché stiamo seguendo il tour, il Christian Tour di RC7, quindi sì. Siamo a Feletto, poi penso toccherai molte altre date. Guarda, andiamo a Medjugorje, a Fatima e se tutto va bene... La serata di Capodanno siamo a Singapore. Beh, un bel triangolo. No, la comunità cristiana di lì è molto forte, ci hanno chiamato, per noi è un onore naturalmente, anche perché non siamo mai stati nel sud-est asiatico. Vabbè, giustamente, quindi from Feletto to Singapore, un bellissimo tour. Sì. Ma è anche un po', questo cambio di nome corrisponde anche un po' a un cambio di stile musicale. Ma diciamo che abbiamo avuto un po' una svolta rock. Negli ultimi mesi, infatti, anche la composizione è un po' cambiata. Io come Ragazzo Cristiano sono sempre il compositore, però vogliamo avvicinarci ai giovani. Perché si dice tanto che Cristo è vicino, ma avviciniamolo a questo Cristo, no? E allora la svolta rock, secondo noi, è proprio ciò che aiuta i giovani a capire Cristo. Il rock è anche tornato di moda. Il rock è tornato, infatti. Quei Maneskin anche, non so se... Non li conosco benissimo perché fanno una cosa molto diversa da noi, sì, però anche... apprezzo comunque lo stile rock. Ecco. Sì, anche sì. Come immaginario sono un po' lontani forse dal... Però sì, non so, la grinta non voglio parlare di colleghi senza non è nel nostro stile, ecco. Ah, poi anche questa è un'apertura, poi una prossima partecipazione a Sanremo, speriamo. Ma magari ragazzi, incrociamo le dita. Sì, anche lì, senza far polemica, la musica cristiana è un po' forse censurata, un po'... Secondo me manca, secondo me c'è un gran bisogno. Però è come se la gente dicesse non voglio questa cosa perché parla di cose vecchie. No, noi siamo nuovi, noi siamo giovani. Ragazzi, diciamo Cristo è giovane. Ci sono tanti giovani qua fuori a Feletto, infatti abbiamo visto, c'è la coda. Quindi... Visto? Sì, e infatti cosa hai in serbo per loro questa sera? Sono arrivati dei giovani. E come avete sentito, appunto, hanno citofonato qua all'oratorio di Feletto perché sapevano che dentro c'era Don Bosco Palace di fianco all'oratorio. Sì, alla fine non erano dei giovani, erano delle suore, ma hanno voluto comunque fare un selfie. Abbiamo fatto la foto insieme, mi sembra giusto comunque, è sempre un piacere. E dicevamo appunto che per noi stasera hai in serbo un pezzo che magari ti faremo fare. Sì, volevo farvi sentire un pezzo rock. Volevo farvi sentire uno dei pezzi nuovi che stiamo proponendo in questa tournée e speriamo che esca nel disco dell'anno prossimo. A noi piace moltissimo, la band è contenta, la band è gasata quando lo facciamo. E anche le tematiche sono un po' più rock? Le tematiche sono sempre rock, perché Cristo è rock. Giusto. Di base. Allora, prima di ascoltarci questo pezzo, non so se vuoi lanciare anche un messaggio ai nostri ascoltatori. Viva Cristo, viva l'amore, viva il Santo Natale, vogliamoci bene. Però in modo rock. Yeah! Se la notte è come se lui respirasse accanto a me, con la testa sul cuscino, nelle mani il mio destino, e disegna la mia vita, dietro al buio c'è un'uscita, che dà forza al mio cammino, nella luce del mattino. Ballare Gesù, che se spengo la luce so che tanto ci sei tu, e prendimi per mano Gesù, e portami lontano Gesù, che ho voglia di sballare Gesù, che se spengo la luce so che tanto ci sei tu, passo il tempo come se lui non vivesse insieme a me, mi trascuro, mi deprimo, penso troppo al mio destino, ma lui appare tra la gente, lui legge nella mia di ballare Gesù, che se spengo la luce so che tanto tanto ci sei tu. RC7 per Putagel, cioè, grazie ragazzi, che ci ha gasati parecchio in vista del concerto che avverrà tra poco. Grazie mille, è sempre un piacere essere con voi, con tutta questa bella gente, nella bellissima cornice di Feletto. Ti aspettiamo allora per presentare l'album anche in studio. Sarebbe bellissimo, assolutamente, contateci ragazzi. ciao a tutti. Usain Bolt du poulailler. Tu ne m'attraperas jamais. Fini chercher pour la maman qui attend nous pour boire un petit coup et puis famille à Osea. Qui ça? Fini chercher pour la maman qui attend nous pour boire un petit coup et puis famille à Osea. Les aigus de la montre ne font que tourner où oh. Et jamais tu ne pourras m'attraper où oh. La mère de ta mère a déjà essayé hey. Et le père de ton père a toujours échoué Petite maman, tu plantes la graine, tu veux me manger. Petite maman, tu plantes la graine, tu vas échouer où oh. Tu ne m'attraperas jamais. Ah petite maman tu plantes la graine tu veux me manger. Petite maman tu plantes la graine tu vas échouer ou oh, oh. Ah, tu ne m'attraperas jamais. Tu veux pas m'attraper. Fini chercher pour la maman qui attend nous pour boire un petit coup et puis famille à Osea. Qui ça? Fini chercher pour la maman qui attend nous pour boire un petit coup et puis famille à Osea. Qui ça? Fini chercher pour la maman qui attend nous pour boire un petit coup et puis famille à Osea. Qui ça? Fini chercher pour la maman qui attend nous pour boire un petit coup et puis famille à Osea. Petite maman, tu plantes la graine, tu veux me manger. Petite maman, tu plantes la graine, tu vas échouer. Ah, tu ne m'attraperas jamais. Parce qu'on m'appelle Torniamo in onda sulle non frequenze di Radio Banda Larga. Le classifiche per questa sera non sono ancora finite, perché questa è una puntata, sì, come sapete, di sola però classifica. Anche Walter che ci ha dato il contatto di Ragazzo Cristiano. Ragazzo Cristiano, sì, dobbiamo ringraziare sempre Walter Comoglio per questo. E come dicevo, le classifiche non sono finite per questa sera. Abbiamo pensato di coinvolgere uno stretto collaboratore ormai di Putagè. Si tratta di Marco Maioli, che segue per noi la rubrica Il Valzer delle Punte e che stasera abbiamo in collegamento appunto per sentire di quale classifica ci ha preparato. Di solito è tema calcistico, ma vediamo in questo caso. Ciao Marco. Ciao a tutti, sì, anche stasera tema calcistico, insomma, essendo la fine dell'anno mi sono detto perché non parlare così di cinque partite più significative del 2022. Perfetto. Ovviamente, esatto. Lasciando da parte quelle di cui tutti sappiamo e che è inutile rivangare qua. Infatti, immagino che tu abbia fatto delle scelte particolari. Esatto, un po' così, marginali. E comincerei dalla fine dell'anno, diciamo, da questo Polonia-Serbia 4-0. E di cosa parliamo? Allora, tutti sanno che in questo momento si stanno giocando i mondiali, ma forse non molti sanno, non so perché questa cosa viene un po' taciuta, che parallelamente e sempre in Qatar si è giocata la Fans World Cup, cioè il mondiale dei tifosi. Bellissimo, in effetti non lo sapevamo. Si gioca a calcio a 5, bisogna avere 18 anni ed essere cittadini o residenti nella nazione in cui si vuole, per cui si vuole giocare. E quindi i gironi rispecchiano esattamente quelli dei mondiali veri, cioè ci sono le stesse squadre, le stesse nazioni. Però in questo caso, appunto, la finale è stata Polonia-Serbia 4-0, con il trofeo consegnato da Cafu e Ronald Boer. Appunto, la Polonia ha fatto ben 31 gol, quindi direi un po' la sorpresa di questi mondiali. Non vi leggo i nomi della squadra perché, ovviamente, non dicono a me e a voi niente, però ho notato che esiste anche un allenatore, cosa che mi fa un po' strano perché dovrebbe essere una cosa, insomma, dei tifosi che giocano, certo, con un allenatore. E che tale Blazej Telikowski, che poi tra l'altro vedo è uno che gioca a calcio poi nella vita vera in Polonia, insomma ormai è vecchio ma ha fatto presenza in Coppa UEFA eccetera, non so se è barare questo, comunque sappiate che è successo. Bene, questo in effetti penso che nessuno lo sapesse, non so come l'hai trovato, ma perché non danno sito con le statistiche. Ecco, appunto, mi chiedo, non so. Poi andiamo avanti con una partita dello scorso di gennaio, quindi è sempre 2022, Tolosa-Versailles 0-1. Perché è importante questa partita? Vabbè, intanto perché era un ottavo di finale di Coppa di Francia e il fatto che il Versailles dalla quarta serie francese l'abbia vinto, no? Eliminando il Tolosa che era nella seconda serie e poi è stato promosso, è significativo già di per sé. Poi il Versailles è arrivato fino in semifinale eccetera, ma perché questa è stata una partita occasione per una bella fake news che ha fatto un po' il giro del mondo. È una di quelle fake news che poi non portano nessuno a entrare in un posto e a sparare dei bambini, ma comunque è una fake news perché all'epoca si leggeva dappertutto che il Versailles avrebbe dovuto giocare la partita in casa, ma l'aveva giocata, era poi stato ribaltato, invertito il campo, perché secondo una legge di 500 anni fa Versailles, lo stadio è troppo vicino alla reggia e non è consentito che la stanza del re debba essere colpita da fonti di luce dopo il tramonto entro un raggio di 5 km. Ops. E questa è stata riportata da diversi siti, da diversi giornali, ma ovviamente la cosa, uno pensa, questi hanno tagliato la testa al re, alla regina e anche un certo numero di persone, è strano che ancora non possono giocare le partite per colpa della stanza del re. E infatti non è vero, anche se è molto bello. Il problema è un problema dell'UNESCO, che appunto c'è un regolamento che prevede che per la protezione visiva entro un raggio di 5 km non ci siano elementi permanenti abbastanza alti da inficiare la libera vista del luogo da parte dello spettatore, e in questo caso dei riflettori fissi sarebbero elementi di questo tipo. Okay. E quindi è per questo, è l'UNESCO che li ha fatti giocare in trasferta, sì, e non Luigi XIV. Esatto, anche perché non penso non ci dorma nessuno nella stanza del re adesso. No, infatti. Tra l'altro ti chiedo una cosa che non capirà nessuno, ma è aperta il martedì la reggia di Versailles? spero di no. Andando avanti, altra partita sicuramente interessante che si è svolta a ottobre, la nazionale degli scrittori tedeschi contro la nazionale degli scrittori spagnoli, che è finita 3-1 per la Germania. Significativa è Monty Python, diciamo. Ecco, perché era la prima volta che gli scrittori spagnoli scendevano in campo con la loro nazionale, soprannominata già la Cervantina, appunto da Cervantes. Mentre la nazionale tedesca esiste da 10 anni, si allena ogni settimana, per cui capite che è finita 3-1 per la Germania, anche perché gli spagnoli avevano un'età media sui 50 anni, non si conoscevano tra di loro, sono stati infortuni già solo in allenamento, però è stata una partita con tutti i crismi, con le divise ufficiali della Spagna fornite dalla federazione, con gli inni che sono stati suonati, i bambini in campo con le formazioni, no? Quindi una partita vera, però il portiere della Spagna aveva comunque 66 anni e ha preso gol da dei trentenni, quindi la cosa un po' squilibrata come situazione. Esatto, la cosa però molto bella è che ho detto che il grido di battaglia della squadra sia Miguel de Cervantes Saavedra, l'ha gridato da tutti i giocatori insieme, no? Che bello. Insomma. Bello, deve essere bello assistere a questa performance. E si parla già di una gara di ritorno che stanno preparando. Poi torniamo alle coppe con in Argentina, Agropecuario Racing 2-1. Allora, il Racing, squadra famosissima che non bisogna ovviamente presentare, e dall'altra parte c'era l'Agropecuario, una squadra della seconda serie argentina nata nel 2011 per iniziativa di Gustavo Grobo Copatel, che è noto in Argentina come il re della soia, no? Perché è a capo di uno dei più grandi gruppi argentini di produzione ed esportazione di grano e di soia, come il nome Agropecuario già un po' fa capire. E quindi di per sé sarebbe la classica partita, no? Una piccola squadra, anche abbastanza sconosciuta, contro una grande squadra. Ma qui c'era un problema: il fatto che Grobo Copatel è un grande tifoso del Racing, e nell'occasione ci ha tenuto a farlo sapere a tutti e ha fatto scrivere sulle maglie della sua squadra: grazie papà per avermi fatto del Racing. No, ma che, come? Capite, scendere in campo, no? con una scritta in omaggio all'avversario è un po' così, no? E lui l'ha spiegato dicendo: beh, certo, l'Agropecuario è un sogno diventato realtà, però il Racing è l'amore di tutta una vita. Vabbè. E alcuni giocatori si sono dichiarati un po' a disagio di questa cosa, ma non erano molto contenti, non gli era mai capitato nella vita di fare una cosa del genere. E se fosse stato per il proprietario, avrebbero giocato addirittura in casa del Racing. Lui avrebbe detto: ma sì, tanto il Racing gioca in casa comunque, sarebbe un sogno, speriamo. Non si è potuto fare. E la cosa bella è che, nonostante tutto ciò, poi ha vinto l'Agropecuario 2-1 ed è qualificato per gli ottavi di finale. Colpo di scena finale. Sì. E concludo con quella che secondo me è un po' la partita che ci porteremo dietro di questo 2022, ovvero Saint Lucia San Marino 1-1. Siamo tutti non si certo, poteva. Siamo d'accordo, certo. 17 novembre siamo al Darren Semi Cricket Ground di Gross Islet, St. Lucia. I padroni di casa conducono da un'ora grazie al gol di Baptiste, quando al 93esimo il classe 2003 Lorenzo Lazzari pareggia la partita. È la prima volta che San Marino segna un gol fuori dall'Europa, è il primo gol a una nazionale non europea e soprattutto è il quinto gol in trasferta dal 2004 a oggi. Il 2022 è stato proprio l'anno in cui San Marino ha scoperto il mondo fuori dall'Europa, perché da quando esisteva non aveva mai giocato contro nazionali non europee, e quest'anno ha cercato in tutti i modi di espandere i suoi orizzonti. A marzo c'è stato San Marino Capoverde 0-2, giocata a San Pedro del Pinatar presso Murcia, in un impianto che negli stessi giorni ha ospitato anche Liechtenstein Capoverde e Liechtenstein Isole Faroer. I murciani si sono goduti, esatto, un bel triangolare, un periodo di grande calcio, tutto a porte chiuse, quindi non so perché niente, cioè, quindi anche di nascosto, voglio dire, ma cosa avete da nascondere, no? No, infatti. Poi a settembre San Marino ci ha ritrovato con San Marino Seychelles a San Marino. Addirittura si era parlato che questa gara potesse saltare per problemi di viaggio. Pare sia intervenuta la FIFA a pagare l'aereo alle Seychelles, che sono riusciti a fare Dubai, Roma e poi in pullman fino a San Marino. E poi 0-0 è finita, quindi anche stavolta non sono riusciti a vincere. E poi il doppio scontro ai Caraibi con St. Lucia, 17 e 20 novembre. Due gare nello stesso stadio a distanza di tre giorni. Anche qui c'era, si vedeva negli articoli, nei commentatori, la voglia di finalmente vincere una partita per San Marino, ma non è successo. Però faccio notare il bellissimo contorno, perché si giocava in uno stadio di cricket, quindi la distanza tra il campo e gli spalti era infinita, cioè non si vedeva proprio dove finiva, e quindi la grande importanza data ai raccattapalle, che qui erano dei ragazzini con la maglietta con nome e numero, che è una cosa che non ho mai visto prima, è molto bella. Bello, sì, giusto, giusto valorizzare, esatto, sì. Anche i raccattapalle. Beh sì, queste sono esattamente le partite che volevamo ricordare. Tra l'altro tu le hai viste tutte, immagino. No, devo dire, ho visto 10 minuti della seconda St. Lucia San Marino e mi sono divertito molto comunque. Purtroppo 1-0 rigore San Lucia, e i cronisti comunque erano molto abbacchiati, perché speravano che magari questa fosse l'occasione per vincere una partita, e invece comunque anche molto nervosismo alla fine, molti minuti di recupero, mezze risse, così. Vabbè, dai, puntiamo tutto sul 2023 per il San Marino. Beh, va bene. Allora, grazie mille Marco. Tra l'altro io ne approfitto per farti una domanda che non ti abbia mai fatto, cioè com'è essere Marco Maiori? Cioè il fatto che tutti quelli che trovano delle curiosità calcistiche di qualunque tipo ti scrivono per segnalartene, cioè come vivi questa cosa? Ma molto bene, a parte che alcune me ne segnalano tipo 12 persone, è sempre la stessa, ma... Bene, bene. Quindi infatti, continuate a farlo. Bene, allora grazie. Assolutamente. Grazie Marco e niente, ti aspettiamo allora ovviamente già da gennaio per nuove curiosità calcistiche e non. E niente, buone vacanze anche a te. Perfetto. Ricordiamo Catartico, appunto, il podcast che trovate, che state seguendo sui coini per i mondiali. Esatto. Bene. Perfetto. Ciao Marco, ciao. Grazie. Ciao. Beh, noi abbiamo finito anche questa puntata di classifiche, l'abbiamo finita. Quindi. Esatto, così possiamo anche ricordare ad esempio la playlist di Putagè con tutta la musica che passiamo durante le puntate, che si chiama Putagè, la trovate su Spotify. E per i podcast non abbiamo ancora risolto. No, però comunque i podcast per adesso sono su mixcloud.com/putagè, poi vi faremo sapere. Vi faremo sapere per i prossimi, perché adesso c'è un problema con Mixcloud. Sì, che vogliono farsi pagare. No, vabbè, no, assurdo. Adesso stacca i microfoni, perché sennò poi diciamo delle cose che non vogliamo dire. No, e poi ricordatevi, in realtà possiamo dirlo, nessuno si è mai iscritto al Putagè Alarm. Sono tutti stati iscritti. Senza la loro volontà. Ma se qualcuno per caso volontariamente volesse ricevere il Putagè Alarm, può scrivere. Diciamo così, volesse essere il primo a voler ricevere, esatto, il Putagè Alarm. Però devo dire anche che nessuno si è mai tolto. Quindi, no, infatti, d'altro comunque, canto. Se scrivete a redazione.putagè@gmail.com, noi vi aggiungiamo quando a questa newsletter che arriva pochi minuti prima dell'inizio di Putagè, una semplice email che vi avvisa che sta iniziando Putagè, vi dice il tema della puntata. Quindi chi vuole essere il primo a iscriversi al Putagè Alarm può scriverci. Esatto, quindi noi non possiamo fare altro che darvi appuntamento a Radio Carbone tra una settimana. Esatto, che pare che stiano preparando una grandissima puntata. Esatto, stay tuned e noi ci risentiamo poi. Ringraziamo Guglielmo ovviamente in regia, ringraziamo Sol che è intervenuta, vabbè, Marco che è intervenuto, pubblico. E anche qua gli ospiti, Lucio, Franca e anche Shai. Shai che sta parlando, non ci ha sentito. La salutiamo calorosamente e noi abbiamo appuntamento a gennaio, vi lasciamo con le note di Gerardo Balestrieri. Ciao. Ha un suo stile il Putagè. Antico svizzero elefante, stendo i calzini, faccio il minestrone, il tè, castagne, china calda e vin brûlée.